Il maestro improvvisa che atmosfera di pace e l'orchestra si tace per ascoltare la voce del suo cuore. Forse un dolce lamento, forse un triste rimpianto, o soltanto il tormento di un ricordo che non si è spento ancora. Musica divina, queste cose le sai dire solo tu. Penetri dolcissima nell'anima per non lasciarla più, mai più. Il maestro improvvisa e l'orchestra si tace, ma in quest'aria di pace c'è la sua voce che parla ai nostri cuori. Queste cose le sai dire solo tu. Penetri dolcissima nell'anima per non lasciarla più, mai più. Il maestro improvvisa e l'orchestra si tace.